Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Secondo Confindustria, la crisi ha fatto i danni di una guerra. La manovra avrà un impatto molto limitato, tra lo 0,1% e lo 0,2%. L'aula della Camera intanto inizia l'esame, appunto, della manovra della legge di stabilità. Sono 800 gli emendamenti, il governo mette la fiducia. Lampedusa, è stato rescisso il contratto con la cooperativa che gestisce il CIE dopo lo scandalo delle immagini che sono state diffuse. Parla Chieng e dice: capisco la minaccia dell'Unione Europea di togliere i fondi. Incredibile vicenda del serial killer fuggito a Genova dopo un permesso premio. Il direttore del carcere dice: a noi risultava come rapinatore. Rai, la proposta del presidente della commissione di vigilanza. Sul sito tutti gli stipendi e i curricula dei dirigenti. Roberto Fico, ospite tra poco in Effetto Giorno. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare lo potete fare al 349-238-6666 oppure scrivere su Twitter, l'hashtag è Effetto Giorno, c'è anche la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dunque dai dati e dalle previsioni di Confindustria e dall'analisi sulla situazione del paese arrivata oggi. Lo facciamo con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Un'analisi amara, quella di Confindustria. La recessione è finita e i suoi effetti no, e sono paragonabili a quelli di una guerra, scrive il Centro Studi di Viale dell'Astronomia, che rivede al ribasso le stime di crescita di quest'anno. Il 2013 si chiuderà al meno 1,8 dal meno 1,6 previsto, invariata invece al più 0,7 la previsione per il 2014. L'eredità di 6 anni di recessione ha provocato la perdita di 1.800.000 posti di lavoro. I poveri sono raddoppiati, raggiungendo la cifra di 4,8 milioni, le famiglie hanno ridotto i consumi. È per questo che il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, mette in guardia da facili ottimismi. Sentiamo le sue parole. Attenzione, perché noi abbiamo perso 9,1 punti di PIL dal 2007 ad oggi. Il fatto che per un trimestre la discesa non sia più continuata significa che siamo nel fondo del buco, però non lo potrei interpretare con tutta la buona volontà come un segnale di decisa ripartenza o di fine della recessione. E poi la legge di stabilità per Confindustria, il suo impatto sulla crescita del PIL per il 2014 sarà limitato tra lo 0,1 e lo 0,2, il giudizio dunque non è positivo, almeno non totalmente. Qualche elemento positivo c'è, dice Squinzi, ma certamente non è quello che ci aspettavamo e pensiamo che non sia sufficiente per far ripartire il paese. E il numero uno degli industriali interviene anche sulla proposta del segretario del PD Renzi di abolire l'articolo 18 per i neo assunti, va nella giusta direzione, dice, anche se prima bisogna aumentare il lavoro. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Veniamo appunto alla legge di stabilità. Il governo alla fine ha messo la fiducia, come era prevedibile, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Palazzo Chigi, Simone, accelera dunque sulla legge di stabilità. Un'ora fa il ministro per i rapporti con il Parlamento Franceschini ha posto la fiducia sul testo uscito dalla commissione bilancio. Nessun nuovo maxi emendamento, ma si voterà domani sulle modifiche apportate in commissione. Il provvedimento tornerà quindi al Senato per il varo definitivo entro Natale, ma il via libera potrebbe arrivare anche nel fine settimana. Critiche Forza Italia, Movimento 5 Stelle per il ricorso alla fiducia. Non potevamo fare altrimenti, replica il governo di fronte a quasi 1.000 emendamenti. Critica il testo anche dagli industriali, lo abbiamo ascoltato. A difendere la legge di stabilità è però il presidente della commissione bilancio della Camera Boccia, Partito Democratico. Sentiamo questo contributo. Confindustria auspicava, come auspicavamo tutti, che fosse possibile tagliare di più. C'è un impegno del commissario Cottarelli alla spending review. La legge di stabilità gli consentirà di tagliare e il Parlamento dovrà aiutare il commissario a tagliare meglio che in passato. Certamente è finita la stagione dei tagli lineari, si faranno tagli di qualità e che andranno tutti a riduzione del costo del lavoro. E così Boccia, Partito Democratico. Tra un quarto d'ora ci sarà la capigruppo qui alla Camera che fisserà il calendario dei lavori per la fiducia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Da Roma ci spostiamo a Bruxelles, dove si apre il Consiglio europeo, all'insegna tra l'altro dell'accordo raggiunto nella notte sull'unione bancaria. C'è là il nostro inviato Sergio Nava. Sergio, buongiorno. Buongiorno da Bruxelles, dove da tra meno di due ore inizieranno i lavori del vertice europeo, summit che si apre come previsto sotto buoni auspici. Ieri a tarda sera è stato raggiunto l'accordo sul secondo pilastro dell'unione bancaria, in sostanza è stato varato il cosiddetto meccanismo unico di risoluzione delle banche in crisi, che permetterà di gestire in modo ordinato eventuali fallimenti degli istituti di credito, spezzando così il legame vizioso tra conti pubblici e finanza privata. Nei fatti si crea un board europeo che potrà gestire in 24 ore una crisi bancaria, decidendo se liquidare o meno l'istituto di credito. Nel caso ciò avvenga, tra 10 anni un fondo unico dell'Eurozona, pagato dalle banche stesse, provvederà a finanziare coi suoi 55 miliardi i costi di liquidazione o ristrutturazione. Nel frattempo opererà una sorta di paracadute garantito dai paesi dell'Eurozona o, alla peggio, dall'attuale fondo salva stati, anche se su questo punto resta una certa ambiguità, principalmente a causa dell'opposizione tedesca. I 28 leader dovranno dare l'imprimatur finale oggi all'accordo, in attesa dei difficili negoziati con l'Europarlamento. Obiettivo è l'entrata in vigore nel gennaio 2015. Saranno coperte le 130 maggiori banche europee. Nel menù dei leader, in una Bruxelles semi-paralizzata da una protesta simile a quella dei forconi italiani, con veri e propri blocchi stradali in centro, ci saranno oggi anche i nuovi contratti di solidarietà fortemente voluti dalla Germania per vincolare i paesi in crisi alle riforme strutturali sul lavoro, pubblica amministrazione, innovazione e formazione. Ci sarà la difesa comune europea, pochi progressi previsti a causa dell'opposizione inglese, ci sarà anche immigrazione e politica estera. Mezz'ora fa il premier Enrico Letta è giunto al prevertice dei socialisti europei, poca nostalgia invece da parte dei popolari europei per l'assenza di Silvio Berlusconi, impossibilitato a lasciare l'Italia in quanto condannato. Questa è la legge italiana, come in tutti i paesi, rispetto alla giustizia, ha sentenziato Josef Daul, presidente del PPE. Tutto. Grazie Sergio Nava. E veniamo alla vicenda di cronaca che sta colpendo e scandalizzando un po' tutti, la vicenda del serial killer, l'uomo che uccise 3 persone e che dopo un permesso premio è evaso, ed era tra l'altro la 5ª evasione. Posti di blocco e segnalazioni non sono bastati. Bartolomeo Gagliano, evaso dal carcere genovese di Marassi, ancora non si trova. Il suo ex avvocato lo ha invitato a cambiare idea e a chiamarlo, ma per ora Gagliano sembra sparito. L'ultima segnalazione è arrivata nella notte dal pronto soccorso di Lavagna, ma non corrisponderebbe al serial killer. Gagliano, ribattezzato il mostro di San Valentino per aver ucciso un transessuale proprio nella festa degli innamorati, è stato condannato per 3 omicidi, sempre nel mondo della prostituzione. La sua fuga dura da ormai oltre 24 ore. Era uscito dal carcere di Marassi in permesso premio per andare a trovare la madre, a Savona. Lì, all'alba di ieri, ha sequestrato un panettiere per farsi portare a Genova a bordo di una Panda Van verde. Pistola in pugno, ha costretto il commerciante a caricare in auto 3 valigie. Arrivati a Genova, lo ha fatto scendere in una zona appartata, alle spalle del porto, e ha proseguito da solo, facendo perdere le sue tracce. In tutta la regione sono stati immediatamente costituiti dei posti di blocco, per ora non sufficienti. Intanto, in città, cresce la psicosi per il serial killer delle prostitute, alla sua 6ª evasione. Riccardo Porcu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Luigi Pagano, vice capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ma com'è possibile? Che cosa? Com'è possibile che quello che è successo? Ma io personalmente credo che le misure alternative o i permessi possano avere un'incidenza bassissima, peraltro anche di insuccesso. Su 20.000 permessi concessi può anche succedere che ci sia un caso che vada negativamente, come le stesse misure alternative. Se poi la domanda è se il detenuto era stato osservato, invece gli dico di sì. Era stato osservato, c'era stata un'espressione da parte del gruppo di trattamento del carcere di Genova, c'era stata anche una visita psichiatrica e poi alla fine c'è stato anche un vaglio da parte della stessa magistratura. Cioè la concessione di un permesso premio o di una misura di sorveglianza di alternativa comporta un processo abbastanza lungo e abbastanza complesso, che è stato fatto. Poi può succedere pure che ci sia, ripeto, un caso negativo. Senta, il direttore del carcere, c'è un'altra cosa che colpisce molto, il direttore del carcere che dice, insomma, noi non sapevamo che quest'uomo nel suo passato aveva ammazzato 3 persone, insomma sapevamo solamente che era un rapinatore. Anche qua, mi perdoni Pagano. No, credo che il collega, se mi consente, credo il collega è stato un equivoco verbale. Lui voleva far riferimento a questa carcerazione, cioè in effetti lui entra nel 2006 con un altro tipo di reato. Il fatto di conoscere è stato conosciuto anche abbastanza bene, altrimenti doveva fare un anno, non è che dovesse fare chissà che, quell'altra pena l'aveva scontato. Credo che intendesse questo, cioè lui stava detenuto dal 2006 per altri tipi di reato, non è che non si conoscesse, ripeto, io ho letto l'istruttoria dello stesso permesso, è stato diverse volte è stato rigettato al magistrato, poi è stato osservato accuratamente, in carcere parliamo naturalmente, aveva già goduto di altri permessi e alla fine la valutazione è stata positiva di un breve permesso premio, ma era il terzo permesso tra l'altro godeva. Il terzo permesso credo che sia stata veramente un'imprecisione linguistica, soltanto un errore linguistico. Questo nelle parole appunto del direttore del carcere. Lei capisce però, Pagano, la grande perplessità della gente? Adesso mi scrivono via SMS, dicono il direttore del carcere si dovrebbe dimettere. Guardi, io capisco le perplessità della gente, capisco veramente, perché tra l'altro sono anche un cittadino e quindi ho anche famiglia, però le misure alternative sono di un'importanza fondamentale, ripeto, per l'esecuzione penale, perché per vedere se una persona è reinserita la devi necessariamente valutare in ambiente libero e il grosso numero di misure alternative concesse che vanno in esito positivo, significa sicurezza per la società, perché il fatto che stia in carcere, doveva fare tra l'altro un anno nel caso specifico, il carcere se va scontato fino alla fine ha un tasso di recidività enorme, mentre invece le misure alternative aiutano ed alzano veramente la possibilità di non commettere più reati fino al 60-70%. Allora Pagano, io questo lo capisco, però ho un'ultima domanda a questo punto. Questa è la sesta evasione. Allora io capisco le misure alternative, capisco i permessi premio, e però dopo 5 volte che evade uno non lo fai più uscire, almeno nella mia testa. Capisco, no, che questo sia molto semplice, se vogliamo anche forse un po' populista, ripeto, però fare tra un anno sarebbe comunque riuscito, e quella è una misura trattamentale, devi valutarla anche nel caso, rischiando anche, ma i rischi sono, se parliamo del caso specifico, sì, c'è stato un fallimento, però devi valutarlo rispetto anche al dato statistico, rispetto agli altri 20.000 che rientrano, non gettiamo il bambino con tutta l'acqua, vorrei dire, è un caso, ma soltanto mettendolo fuori alla fine riesci a capire se una persona è reinserita oppure no. Vorrei che la gente capisse che tutto questo è veramente, fa parte di un sistema di sicurezza, altrimenti il carcere serve a poco, altrimenti dobbiamo condannare tutti quanti all'ergastolo, e non credo che sia la soluzione migliore. Grazie a Luigi Pagano, vice direttore del DAP, per essere stato con noi. So che purtroppo, ma insomma, lo dico, ma insomma, senza avercela con lei, che non ha fugato i dubbi dei nostri ascoltatori che continuano a scrivere. Noi passiamo a parlare di un'altra vicenda, la vicenda di Lampedusa, le immagini shock diffuse dal TG2 che riguardano il CIE. Ci sono le parole oggi del ministro Kyenge, intervenuto a 24 mattino su Radio 24, ne ha parlato tra l'altro anche il presidente della Camera, Laura Boldrini, e tra poco sentiremo che cosa ha detto. Iniziamo però dalle parole di Kyenge. Io capisco la minaccia dell'Unione Europea, ma credo che prima di ritirarla dovremmo essere in grado di dimostrare, di far capire. Le immagini che abbiamo visto sono state condannate da tutti, non rappresentano l'Italia, ma dovremmo essere in grado prima di passare a una decisione così drastica di poter dimostrare effettivamente qual è il livello della nostra accoglienza. Così il ministro Kyenge. Sentiamo la nostra Elisabetta Fiorito, che ha seguito tra l'altro la conferenza stampa di fine anno, l'incontro di fine anno di Laura Boldrini, e anche di questo ha parlato. Elisabetta, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. Laura Boldrini interviene sulle immagini dal centro di Lampedusa. È inaccettabile, colpisce l'onore del nostro paese, le immagini peggio del calo del PIL. Queste le parole del Presidente della Camera alla cerimonia di auguri di Natale qui alla Camera. Sulle riforme Boldrini auspica che sia approvata la legge elettorale. Il mio obiettivo, dice, che si arriva nei tempi più brevi, molto dipende dalla volontà dei gruppi parlamentari. In ogni caso la legge elettorale alla priorità non c'è stato, spiega poi Boldrini, alcun braccio di ferro tra Camera e Senato, con il presidente Grasso c'è una forte sintonia. Ci sono poi le polemiche sul viaggio in Sudafrica per il funerale di Nelson Mandela. Alla commemorazione non era inopportuna, dice Boldrini, la presenza del mio compagno, per le stesse ragioni per il quale il presidente del Consiglio era lì insieme a sua moglie e altri rappresentanti istituzionali di vari paesi, avevano fianco i rispettivi partners. È la seconda volta che prendo l'aereo di Stato, l'altra volta era stato per andare a Bari. Riguardo ai tagli della Camera, Boldrini spiega che ci sono stati, ma non per i titoli sui giornali, bensì per sobrietà. Attenzione poi a non strumentalizzare a fini politici il malessere della gente. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo il vice premier e ministro dell'interno Angelino Alfano ha detto che il governo ha deciso di recidere il contratto con l'ente che ha gestito il centro di Lampedusa. Parleremo anche di questo tra un attimo, dopo la viabilità, con Paola Menetti, che è presidente di Lega Coop Sociali, e insomma la cooperativa che gestiva il CIE di Lampedusa, che aveva che doveva gestire quei servizi, era proprio di Lega Coop. Quindi a tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Confindustria dice che la crisi ha fatto i danni di una guerra. La manovra avrà un impatto molto limitato, tra lo 0,1 e lo 0,2% del PIL. Intanto sulla legge di stabilità il governo mette la fiducia. Lampedusa, è stato rescisso il contratto con la cooperativa che gestisce il CIE. Parla Chienghe, dice: capisco la minaccia dell'Unione Europea di togliere i fondi all'Italia. La vicenda del serial killer fuggito a Genova dopo un permesso premio. Il direttore del carcere dice: l'ultima condanna era come rapinatore e aveva già scontato la precedente. Rai, la proposta del presidente della commissione di vigilanza sul sito tutti gli stipendi e curricula dei dirigenti. Roberto Fico sarà ospite tra poco in effetto giorno. E però in apertura di questa seconda parte rimaniamo sul tema che abbiamo lasciato proprio un attimo fa, prima della viabilità, ed è la vicenda di Lampedusa e di queste immagini shock che sono state diffuse dal TG2. Saluto Paola Menetti, presidente di Lega Coop Sociali. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto le chiedo di commentare quello che ha appena detto che ha annunciato il vice premier, il ministro dell'interno Angelino Alfano, che ha detto che il governo ha deciso di dare la disdetta del contratto con una cooperativa a voi legata. Il commento è molto immediato e il fatto che è accaduto è certamente gravissimo e mette certamente in discussione riferimenti di principio che ci piacciamo vengano ripresi anche dal Ministro dell'Interno. A volte abbiamo avuto l'impressione, molte volte, anche su Lampedusa, che questi principi, come dire, il governo se li stesse piuttosto dimenticando. Al momento io questo mi sento di dire. E basta. Rispetto alla realtà e alla vicenda della nostra cooperativa c'è evidentemente da esprimere una grande amarezza, perché come accade in queste circostanze, questo terribile episodio evidentemente fa passare in assoluto secondo piano, anzi fa dimenticare l'impegno, l'abnegazione, il lavoro, la passione di tanti operatori che in quel servizio hanno lavorato e che certamente non meritano di essere ascritti tutti quanti sotto i titoli che abbiamo dovuto purtroppo vedere in questi giorni. Questo sicuramente. In quanti altri centri avete l'appalto di gestione come Lega Coop? Come Lega Coop noi non abbiamo mai appalti di gestione, perché Lega Coop non ha alcuna titolarità nelle attività di gestione. Ok, le cooperative a voi associate. I nostri aderenti non gestiscono CIE, non esistono CIE gestiti da cooperative. I nostri aderenti, ci sono alcuni altri servizi nel campo dell'immigrazione in cui ci sono nostre cooperative, sono segnatamente soprattutto CARA e un centro di accoglienza che è quello di Cagliari, di Yelmas. Avete intenzione di fare controlli più accurati anche in questi centri? Ma io credo che sia un'esigenza di tutti, a partire dall'opinione pubblica, alle forze di governo, alle autorità preposte, darsi, anche a noi, darsi l'impegno di avere un'attenzione, un controllo più accurato parlato sulle situazioni, ma ha anche detto che di nuovo va in gioco quella che è la caratteristica di questi servizi, rispetto alla quale noi non possiamo che ribadire una posizione di fortissima riserva. Cioè, entrare in questi servizi non è cosa semplice, perché ci vogliono autorizzazioni specifiche dei prefetti, eccetera. Cioè, sono servizi tendenzialmente chiusi, dove soltanto le autorità istituzionali, le prefetture, possono esercitare controlli. Questo va tenuto presente. Sì, ho un'ultima domanda e le chiedo di essere piuttosto breve, Menetti, però qua secondo me voi dovete anche un altro tipo di risposta, nel senso che il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, e queste cose, insomma il trattamento e la situazione degli immigrati nei centri di accoglienza, nel centro di accoglienza di Lampedusa, la denuncia da molto tempo. Allora, che voi non abbiate effettuato delle verifiche là, mi perdoni, sembra strano a me, sembra strano a molti ascoltatori che ci scrivono. Ma veda, questa cosa che lei dice non risponde a verità. Ci sono state prese di posizioni ripetute della nostra organizzazione Lega Coop Sociali, della stessa Lega Coop nazionale, di Lega Coop Sicilia, che hanno in ripetute successive occasioni richiamato l'attenzione sulle condizioni in cui versava il centro di Lampedusa, osservando precisamente come quelle condizioni rischiavano di mettere a rischio sia la dignità degli operatori che sia la dignità degli utenti che condizioni di lavoro degli operatori, rendendole sostanzialmente invivibili. Purtroppo dobbiamo dire a queste prese di posizione, che ribadisco sono state numerose e ripetute, e peraltro sono uscite sulle agenzie. Sì. Mi scusi Menetti, ecco. non per essere brutale, però a me sembra un po' è colpa del sistema. No, non sto affatto dicendo questo. Le responsabilità, a partire da quelle che riguardano questi episodi, sono di chi quegli episodi li ha messi in atto e ha ritenuto che potessero essere accettabili. E quindi certamente c'è una responsabilità, che abbiamo peraltro denunciato immediatamente, da parte di chi ha messo in atto questi comportamenti, che non sono giustificabili. E tuttavia ritenere che rispetto a questa modalità di gestire il problema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, il solo problema da porsi sia quello delle condizioni di vita all'interno dei centri, quando i centri, per come sono strutturati, non possono che offrire pessime condizioni di vita, questo troviamo che sia un modo ipocrita e sbagliato di affrontare la questione. È l'impostazione della politica complessiva su questi temi che è sbagliata e va rimodulata. Grazie, Paolo Menetti. La ringrazio. Grazie Paola Menetti, presidente di Lega Coop Sociali, per essere stata con noi. Saluto invece Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Bentornato a Effetto Giorno. Benvenuto. Buongiorno a tutti, salve. Eccoci qua. Oggi ha presentato la relazione semestrale su come ha lavorato la vigilanza. L'attenzione si sta concentrando su questa ipotesi che lei ha lanciato di inserire nel contratto di servizio della Rai l'obbligo di pubblicazione dei curricula dei dirigenti apicali e dei loro stipendi lordi. Che possibilità ci sono che questo avvenga, Fico? Ci sono ottime possibilità, perché la Commissione mi sembra concorde nel procedere verso la trasparenza di tutti, sia gli atti di gestione della RAI, sia verso i curricula, la pubblicazione dei curricula e degli stipendi lordi. C'è anche una legge in realtà che dice che tutti gli stipendi devono essere messi online e devono essere lordi per persona, nominali, però intanto stiamo discutendo molto sull'ipotesi di lasciare una parte di stipendi a fasce e una parte anche degli stipendi appunto dei dirigenti apicali e quindi anche curricula, per capire poi la professionalità delle persone che gestiscono, per comprendere la professionalità delle persone che gestiscono la RAI. Ma il punto importante è che stiamo facendo in commissione tutti insieme un lavoro che ha come obiettivo la trasparenza come mezzo per fare diventare la RAI un'azienda migliore e più sana. Sui conduttori naturalmente non si riesce, perché la RAI dice c'è il segreto industriale, siamo in concorrenza con altre aziende, non è che possiamo mettere insomma non possiamo scrivere quanto li paghiamo. Però anche su questa questione non è detta l'ultima parola, perché c'è sempre una legge che prevede appunto la pubblicazione anche dei stipendi dei conduttori RAI. Per ora in vigilanza è arrivato il documento dei stipendi a fasce per i conduttori, è riservato e cercheremo il prima possibile, nel modo giusto, di renderlo pubblico. Senta, c'è questa storia che ci ha anche incuriosito, che è la vicenda di Comunione e Liberazione, del meeting di Rimini, che insomma la RAI aveva un'esclusiva e pagava quanto? No, la RAI non aveva l'esclusiva, no, e non pagava. La RAI stava per chiudere un contratto commerciale con Comunione e Liberazione, ovvero diceva: io ti pago 750.000 euro in 3 anni e io ho l'esclusiva in buona postazione per seguire il meeting di Comunione e Liberazione, ovvero 250.000 euro all'anno per 3 anni. E quando è venuto all'orecchio della vigilanza questo contratto, abbiamo fatto interrogazioni, ne ho fatto anche una io personalmente, abbiamo denunciato anche agli organi di stampa per far comprendere cosa stava succedendo all'opinione pubblica, e dopo una ventina di giorni il contratto non è stato più fatto, è stato stralciato e non c'è stato seguito, e quindi in questo momento la RAI per questa questione diciamo che ha risparmiato 750.000 euro, perché è assurdo e anche vergognoso che un'azienda pubblica paghi una associazione come Comunione e Liberazione, ma come qualsiasi altra associazione, per seguire gli eventi. Di solito è il contrario, ovvero un movimento, un'associazione, un partito chiama la RAI con un comunicato stampa per seguire le proprie vicende. È interesse del movimento, partito, associazione, non è il contrario, e quindi ci sembrava veramente assurdo, e fortunatamente questa cosa è stata bloccata e speriamo che non si ripresenteranno situazioni simili anche nel futuro. Senta, se ne è interessato Fico della vicenda di Caprarica, che lo storico corrispondente Rai da Londra dice: l'azienda, pressioni, metodi inammissibili e offensivi, di fronte al mio rifiuto della proposta di andare via dall'azienda con un incentivo, ho ricevuto contestazioni risibili. Se ne è interessato lei? È riuscito ancora a... non stiamo affrontando questa questione, vedremo in breve tempo se qualche commissario farà delle interrogazioni, dei quesiti su questo, oppure se raccoglieremo la denuncia del corrispondente e faremo un quesito collettivo alla RAI per chiedere chiaramente su questa situazione. Prego, sì, stava finendo. Quindi, in questo momento, siccome siamo in approvazione del contratto di servizio, in questo momento abbiamo... Avete altre cose per la testa? Più che altre cose per la testa, ogni punto a suo tempo. Noi raccogliamo le denunce poi di tutti, e solitamente, anzi, invito a magari a fare una relazione dettagliata a Caprarica e mandarla ufficialmente in commissione di vigilanza, in modo che tutti i commissari ne possano prendere atto e lavorare magari sulla questione. Ultima domanda, oggi il consiglio di amministrazione della RAI dovrebbe esserci, che c'è il piano fiction, ci sono i palinsesti invernali 2014, il budget per l'anno prossimo. Che aspettative ha Fico? Io vorrei una RAI che abbia il coraggio di raccontare il mondo presente e l'Italia presente, perché è anche una questione realmente economica. Se uno ha il coraggio, la lungimiranza di raccontare quello che veramente si muove nelle viscere del nostro paese, raccontare quello che succede nel mondo con coraggio, con una visione anche altra, sono convinto che anche gli ascolti della RAI possano salire, perché è il coraggio che fa salire gli ascolti, ed è il coraggio che fa salire la qualità del servizio pubblico, e quindi è molto importante che la RAI osi di più. Grazie Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza RAI, buona giornata. Grazie pausa. A voi, buona giornata. Grazie, pausa, ci troviamo tra un attimo, incontreremo come sempre un sindaco della Sardegna, un sindaco il cui comune è stato colpito dall'alluvione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Secondo Confindustria, la crisi ha fatto i danni di una guerra. La manovra avrà un impatto molto limitato tra lo 0,1 e lo 0,2% del PIL. Nel 2014 crescita dello 0,7%. L'Aula della Camera intanto ha iniziato l'esame della legge di stabilità, ma il governo ha già messo la fiducia visti gli 800 emendamenti. Lampedusa, è stato rescisso il contratto con la cooperativa che gestisce il CIE dopo le immagini shock diffuse dal TG2. La vicenda del serial killer è fuggito a Genova dopo un permesso premio, lo si sta cercando anche all'estero. E veniamo al nostro appuntamento quasi quotidiano con i sindaci della Sardegna colpiti all'alluvione di un mese e un giorno fa, perché ieri ricorreva un mese, come vi abbiamo raccontato anche qua in trasmissione, in effetto giorno. Saluto oggi Antonio Satta, sindaco di Padru. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose, sindaco? Ma oggi c'è il sole. Diciamo che, come sempre, i sindaci, ovviamente anche se arrabbiati, guardano con ottimismo al futuro. Certo è che di questo passo le cose non vanno bene, perché ormai occorre pensare a quello che bisogna fare subito. Ci dica un po' come è messo il paese, come è messo Padru? Ma il paese, nella disgrazia, è anche un fortunato. Noi abbiamo avuto problemi piuttosto seri nella viabilità provinciale, che siamo riusciti che ha isolato diverse località del nostro comune, un comune molto vasto, il più giovane comune della Sardegna, e quindi siamo riusciti in tempi rapidi, mobilitando la provincia, mobilitando le altre strutture, a rimettere quantomeno in sesto una prima parte. Resta ancora l'isolamento di questi comuni della strada diretta che da Olbia arriva a Loiri, Porto San Paolo e Padru, essendo crollato un ponte che non sappiamo quando potrà essere rimesso in sesto. Ci sono le alternative che chiaramente creano problemi non indifferenti di tempi e nei trasporti, ovviamente. Ma il problema di fondo rimane che siamo di fronte all'annuncio di risorse, sembra quasi assistere a un'asta. Il capo del governo annuncia tanti soldi, poi i ministri alle infrastrutture e all'ambiente ne annunciano anche altri. E lei dice questi soldi non arrivano mai. Ma noi abbiamo un esempio triste. Nel 2009 Padre è stato colpito da un'alluvione con un morto. Bene, i fondi sono distanziati da 4 anni, sono 1.050.000 euro. Soltanto l'altro giorno abbiamo avuto l'autorizzazione per attivare le procedure per appaltare i lavori per il primo lotto della regione di 300.000 euro, dandoci il 10%. Cioè, lei dice nel frattempo c'è stata un'altra alluvione, cioè dal momento dello stanziamento, diciamo, al momento nel quale avete potuto mettere in opera questi fondi, c'è stata nel frattempo un'altra alluvione. Ma come se non ancora in opera, nemmeno messa in opera. Senta una cosa, Satta. L'altro ieri un suo collega ci ha detto: beh, guardi, ci sono un po' di sindaci che stanno facendo i furbi sui fondi, nel senso che battono cassa e magari non ne avrebbero diritto. Ha detto testuali parole: qualcuno batte cassa per lucidare i lampioni. Vabbè, io se queste cose le ha detto se ne assume le responsabilità, no, la cosa non mi riguarda. Io tra l'altro rappresento anche una comunità montana, l'unica, la comunità del Monte Acuto, che ha 6 comuni e che quindi fanno le cose con molta serietà. Noi chiediamo il riscontro, ci sono tutti i tecnici che valutano i danni, che li verificano, e se sono danni fasulli fanno bene a non prenderne atto. Però il problema di fondo è questo, sono i tempi che non sembrano quasi di assistere alle che di mussolini che si spostano da una parte all'altra. I fondi dell'Abruzzo vanno alla Liguria, la Liguria vanno alla Toscana, la Toscana vanno nell'Emilia, e questa è la verità. Ma io a questo punto sto ogni giorno ricordando quel che disse il governatore del Visconsi, colpito da una grande disastro ambientale dopo 3 o 4 mesi che era stato eletto Obama, dicendo una cosa che deve farci riflettere. Quale? Noi siamo un paese che ancora ha necessità di almeno 90 giorni per iniziare i lavori di ripresa. 90 giorni, noi siamo 4 anni noi, altrove sono 10 anni, ma si può andare avanti di questo passo. Ecco perché io, che pure faccio parte dell'ufficio di presidenza dell'ANCI, le battaglie le facciamo duramente, non è pensabile, non è accettabile questo sistema. Grazie Satta, buon lavoro e buona giornata. Saluto Antonio Satta, sindaco di Padru. E invece adesso ci colleghiamo con Stefano Totoro, il collega Stefano Totoro. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Di cosa vogliamo parlare? Allora, c'è questa storia, grandi titoli sui giornali, ti chiedo di essere breve perché abbiamo pochissimo tempo. La storia di "farai sesso con me 4 volte al mese", il presunto contratto stipulato tra l'assessore alla cultura abruzzese e la sua segretaria. L'uomo era stato arrestato un mese fa per corruzione. Tu, Stefano, hai fatto un giro di telefonate tra procura e avvocati e hai scoperto che questo pezzo di carta in realtà non esiste. Sì, esattamente, magari esiste, ma non è esattamente quello che si apprende da fonti della procura e dai legali, dalla legale dell'assessore De Fanis arrestato. Ricordiamo, l'arrestato lo scorso novembre, accusato di concussione, truffa aggravata e peculato. Queste dunque le accuse a carico dell'assessore. Secondo quanto pubblicato questa mattina dal quotidiano La Repubblica, ci sarebbe stato un contratto fra i due in cui si stabiliva in qualche modo una relazione sessuale in cambio di ovviamente di soldi all'interno di questo contratto. Però l'avvocato dice che si parla di un qualcosa di formale, questo sarebbe stato messo agli atti nell'interrogatorio della segretaria dell'avvocato. L'avvocato dell'assessore dice che si parla di un qualcosa di formale che sia stato sottoscritto dall'assessore e dalla segretaria, ma questo non c'è. Il dato che conferma l'avvocato è che fra i due ci fosse un rapporto oltre quello professionale, ovvero ci fosse un legame. Però, come dire, certezze su questo contratto del quale tanto si discute in giro e in rete non ce ne sono. Grazie Stefano Totoro. Non so a chi mi scrive via SMS, signor Spezia Collattile, manca tanto alla pensione. Sì, sono giovane e quindi non so perché me lo chieda, però lo dico, sono giovane e mi manca veramente parecchio, anche perché poi, come sa, ogni tot, no, l'età pensionabile viene allungata. Viabilità e poi platea. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Confindustria dice che la crisi ha fatto i danni di una guerra. La manovra avrà un impatto tra lo 0,1% e lo 0,2% del PIL. L'aula della Camera intanto inizia l'esame della legge di stabilità, ma il governo ha già messo la fiducia. A Lampedusa è stato rescisso il contratto con la cooperativa che gestisce il CIE. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Interno Angelino Alfano dopo le immagini diffuse dal TG2. Rai, la proposta del presidente della commissione di vigilanza, sul sito tutti gli stipendi e i curricula dei dirigenti.